non sanno di che parlare i giornali, eh. È mercoledì 13 di luglio, il Sole 24 Ore, per la verità una doppia apertura, una sulle banche. Le banche spingono le borse, questo è il titolo di prima pagina, ma ovviamente anche scontro tra due treni in Puglia, 26 morti, 50 feriti, purtroppo il numero è da aggiornare, sono 27 le vittime finora accertate. Il Corriere della Sera, morire sul binario unico. Per Repubblica la strage del binario unico, questo binario unico che vedrete tornerà come leitmotiv anche per il Messaggero, la strage del binario unico, lo stesso titolo di Repubblica, Avvenire il binario della morte, il Manifesto l'ultimo treno, ovviamente tutti i titoli sono poi corredati di foto impressionanti come potete immaginare, l'inferno tra gli ulivi è il titolo dell'Unità, mentre Libero, così funzionano le ferrovie nel nostro sud. Ma c'è anche l'apertura delirio della Boldrini riguardo al razzismo. Treni, la strage e le accuse, il titolo del giorno. Il giornale binario morto. Mentre la stampa apocalisse sul binario unico. L'apertura del Fatto Quotidiano anche qui è doppia, treni senza controllo, 25 morti nel frontale, e qui come al solito l'azzardo di mettere i titoli con i numeri, ma anche l'apertura sul referendum, il bavaglio in TV ha funzionato, il no resta senza firme né soldi. Vedremo di che si tratta appunto la vicenda. Intanto la cronaca, quando succedono queste tragedie i grandi giornali mandano i loro maggiori esperti di cronaca a raccontare quelle che sono immagini e foto e istantanee di questa tragedia. Per il Corriere della Sera c'è Goffredo Buccini a pagina 2 e 3, racconta da Andria, le cicale non smettono un attimo, insinuano un senso di pace assurdo, perché qui pace non può esserci, pezzi di lamiera insanguinati si incastrano fin nelle chiome degli ulivi. I campi arati tutti intorno ai binari, tra Corato e Andria nella grande piana pugliese, smorzano rumori ed emozioni in un'eterna attesa del nulla. Ma ora sono punteggiati da brandelli di sedili, sportelli ritorti, borse, fogli di carta, bottigliette d'acqua schiacciate, giocattoli smozzicati, piccoli segni di vita, certezze di morte. Ecco i primi corpi, ecco i lamenti, come dopo una bomba. Come quando un aereo cade, dirà Massimo Mazzilli, che di Corato è il sindaco. 25 morti, in realtà aggiungo io, siamo a 27. Più di 50 feriti, di cui 6 o 7 gravissimi, vari dispersi, i numeri si aggiornano nella notte. Non sono ancora le 11:30 del mattino, quando il treno Alstom bianco, striato d'azzurro, sbuca dal grande curvone che viene da Corato, a 200 o 300 metri dalla casa cantoniera della Provinciane. Il treno Stadler giallo gli viene incontro, partito puntuale da Andria. Il vecchio Lorenzo, pensionato che gli orari di quei regionali e locali gli ha stampati a memoria in testa, l'ha visto uscire dalla stazione pochi minuti prima il treno di Andria e si è detto come mai non è arrivato ancora l'altro treno, quello di Corato. Non è una preoccupazione futile, perché solo nelle stazioni i treni si incrociano. Lì c'è il doppio binario, che poi diventa unico appena le rotaie escono nella piana e nel nulla tra le due città. Perché qui, nella Puglia operosa che per anni ha trascinato l'economia del Sud, la metà di questo circuito gestito da Ferrotranviare S.p.A. è ancora incredibilmente a binario unico per 37 chilometri. Ci sarebbero anche i fondi europei per il raddoppio, ma la gara è stata rinviata. E ovviamente continua la cronaca, ma le polemiche sono proprio sul binario unico. E guardate qui il titolo, per esempio, della Stampa, che è la più esplicita di tutte. L'Unione Europea aveva stanziato 180 milioni per il raddoppio delle rotaie. La linea Bari-Barletta risale al 1965 e Roberto Giovannini scrive anche dal punto di vista ferroviario l'Italia è un paese spaccato in due, una parte della rete sicurissima, modernissima, l'altra è rimasta agli anni 50, l'epoca in cui fu ideato il blocco telefonico sulle linee, quello che operava anche ieri sui 37 chilometri di binario unico. Da noi questo sistema, inventato nell'Ottocento, si può utilizzare. perché le tratte minori, quelle in concessione non sotto l'egida di Rete Ferroviaria Italiana del gruppo Ferrovie dello Stato, non sono obbligate a installare i nuovi, imbattibili e costosi sistemi di sicurezza. E la matrigna Europa, scrive Giovannini, la matrigna Europa aveva dato 180 milioni per raddoppiare i binari. Dove sono finiti questi soldi? Non sono mai stati utilizzati dall'Italia. Ovviamente c'è la ricostruzione, il giallo dell'ALT comunicato via telefono, l'ipotesi di errore sul treno, l'ipotesi di un errore umano di qualcuno che ha dato il via al treno da Andrea quando non è ancora arrivato quello da Corato. Insomma, ora si cercherà di fare chiarezza. Sta di fatto che, come racconta anche Giuseppe Latour sul Sole 24 Ore, pagina 8, l'Italia delle rotaie viaggia a due velocità. L'immagine descrive perfettamente la situazione della rete ferroviaria. Da una parte tecnologie all'avanguardia che garantiscono la sicurezza di 16.700 chilometri gestiti da RFI. Dall'altra un universo composito e disomogeneo, 3.700 chilometri di rotaie che rispondono a un controllore diverso, a 34 aziende a partecipazione sia pubblica che privata, sparse in tutto il paese. Questi soggetti scontano in qualche caso un deficit di investimenti che li mette su un piano diverso rispetto agli standard migliori. Insomma, esiste un universo intero che si colloca fuori dai 16.700 chilometri della rete RFI. Si tratta delle cosiddette ferrovie ex concesse. Negli anni questi soggetti sono transitati nella sfera di competenza di regioni e province autonome che stipulano con loro contratti di servizio. Una mappa molto complicata. Ci sono le polemiche e purtroppo si contano i morti. Vogliamo invece concentrarci su quell'immagine da Bosco Trecase, Napoli, che io già ieri ho scritto sulla mia pagina pubblica di Facebook, mi ha fatto veramente sbottare. Sto parlando dei soliti furbetti del cartellino, quell'immagine di quell'impiegato comunale a Bosco Trecase, Napoli, che si presenta al cartellino per timbrare anche per colleghi, sapendo che c'è la telecamera. Dunque lui che fa? Si mette un cartone in testa per non essere riconosciuto, va lì con un cartone pensando di essere più furbo degli altri, più scaltro degli altri, più intelligente di tutti noi contribuenti che gli paghiamo lo stipendio essendo lui un dipendente pubblico. Tra poco dirò che cosa medito, cosa sogno per quel dipendente pubblico. Comunque intanto la cronaca, Bosco Trecase, il cartellino timbrato col viso nascosto in una scatola, assenteisti in tutti i settori, il sindaco di Bosco Trecase, Pietro Carotenuto, che dice anagrafe, stato civile, ambiente, politiche sociali, i vigili urbani, anche il comandante, nessuno che ci può lavorare, tutti indagati, il comune rischia di chiudere. Guardate qua i titoli, la scatola che non nasconde la vergogna dei furbetti, il giornale. Con la scatola in testa, l'ultimo furbetto del badge, la stampa. E tra l'altro, siccome già li sento quelli che diranno «Ah, ma c'è il nuovo decreto Madia, quello che permette di licenziare in 448 chi fa queste cose». Eccolo qua, i furbetti nello scatolone per beffare le telecamere repubbliche. Ecco, a proposito del decreto Madia, leggete l'intervista che Umberto Folena fa su Avvenire a Vincenzo Ferrante, docente di diritto del lavoro alla Cattolica di Milano, che si dichiara tutt'altro che ottimista sul decreto che poco aggiunge a norme già esistenti e comunque va fuori bersaglio. Il problema sta nell'accertamento del fatto. Avevamo già il testo unico di Brunetta che prometteva «licenzieremo tutti i malfattori». Con lui c'erano 40 giorni per contestare il fatto. Ora diventano 20. E pensate, erano già pochi 40, pensate con 20. E poi il licenziamento in 48 ore è impraticabile. L'attività per la contestazione, lo assicuro, è terribilmente complessa. Dove indirizzare la contestazione? Ci fidiamo delle poste? Ci rivolgiamo all'ufficiale giudiziario? Va verificato che la residenza del furbetto sia anche il suo domicilio? Individuare tutte le singole giornate in cui ha commesso l'infrazione, l'ora esatta? Non basta scrivere ripetutamente perché la difesa dirà che la timbratrice era guasta, l'orario flessibile. Bisogna essere di una precisione certosina, perché trovare un giudice che minimizzi è facile. Insomma, il professor Ferrante ci fa capire che nell'Italia della burocrazia tutto ciò è a favore di questi furbacchioni. Allora vi dico io cosa sogno come paese in questo caso. Sogno che dietro quella telecamera che immortala questo furbacchione con la testa coperta da un cartone ci sia in realtà un essere umano. Non una telecamera che lo riprenda così leggero, un essere umano nella stanza a fianco, che quando vede questa scena è autorizzato, magari perché è una delle forze dell'ordine, a aprire la porta e a presentarsi di fronte a questo signore. Buongiorno! Buongiorno! La sto per arrestare, prima però tolga questo cartone posticcio dalla testa e si faccia riprendere con la sua bella faccia per una bella gogna pubblica. Gogna pubblica, dipendente pubblico, gogna pubblica. 5 minuti così, bah, col faccione davanti alla telecamera, affinché tutti possano vedere lombrosianamente che faccia ha partorito questa bella trovata. Poi si accomodi pure fuori, dopo questi 5 minuti, senza passare dal giudice, senza ritirare le sue cose, vada a cercarsi un altro lavoro, licenziato, per sempre. Vado al ricorso al giudice? No. Oh, cominciamo a fare il loro sporco, la sporca guerra contro il loro sporco modo di intraprendere e pensare l'idea del dipendente pubblico. Usiamo i loro stessi mezzi sporchi e meno siamo un po' meno garantisti. Ecco, mi sono sfogato. Adesso voglio dire che avrà diritto a una difesa, avrà diritto a un ricorso, un avvocato, a un giudice che forse lo reintegrerà. E viva l'Italia del garantismo. Sono rientrato nel mio ruolo istituzionale. Va bene, siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Lo trovate su Repubblica, Ettore Livini, pagina 12. Si parla di banche, ma non nel senso delle banche che affronteremo dopo anche con Mauro Meazza, ma degli stipendi dei banchieri. Le banche in crisi? I banchieri? No. Stipendi su del 9,7% nel 2015, liquidazioni a prova di crack. Nel 2015 i big tricolori con gli amministratori delegati si sono regalati in genere un aumento di stipendio medio del 9,7%. Il valore della loro parte azionaria dei compensi è cresciuto del 68%. Insomma, la moral suasion di Mario Draghi e Ignazio Visco è servita poco. Si raccontano anche le grandi liquidazioni che vanno anche, viaggiano dai 10-15 milioni di euro fino ad arrivare ai 40 celebri di Alessandro Profumo quando ha dato l'addio a Unicredito, i 37,4 di Matteo Arpe. Va bene, va bene, va bene. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, è tempo che tu vada in ferie dell'informazione. Beh, insomma, ancora fammi fare il calcolo, ancora 12 svegli all'alba e poi ci saranno le ferie, cari ascoltatori, fino al 29 luglio comunque sono qui con voi, Non impazzite adesso con i calcoli, fino al 29 luglio, perché il sabato e la domenica non lavoro, e quindi sì, ma non è che mancano 12 giorni al 29 luglio, ma togliete i sabati e le domeniche e vedrete che ci arriverete anche voi. Allora Renzi ieri è stato intervistato da TRTL e ha parlato di varie cose. Intanto l'annuncio dell'addio a Equitalia, l'aveva già detto, entro l'anno bye bye Equitalia, molto storitellosa come annuncio, molto storitelloso, perché in realtà non è che, signori, le multe, le tasse, le cartelle esattoriali, cioè le dovete pagare comunque, state tranquilli, lo stesso Renzi ha detto, non è che non pagherete le multe, ma le pagherete a un ente diverso, in un modo diverso, insomma, comunque, le pagate. State sereni. No, questo non l'ho aggiunto, ma così è. Renzi, addio a Equitalia. Poi l'annuncio anche, vogliamo l'EBA a Milano, cioè l'autorità bancaria europea sorvegliante delle banche dell'Unione Europea. Tra l'altro, sulle banche, ieri c'è stata appunto tra Renzi e D'Alema l'ennesima questione, l'ennesima lite verbale. Nel senso che Renzi a un certo punto nell'intervista ha ricordato, riguardando il passato, c'è stato qualche governo di sinistra che ha privatizzato la Telecom facendo un regalo ai capitani coraggiosi, facendo operazioni molto discutibili, e ha aggiunto: ogni riferimento al governo D'Alema è puramente casuale. Non sono passate che poche ore che al TG5 D'Alema ha rivolto al premier questa stilettata: Renzi potrebbe parlarci delle fughe di notizie sulla Banca Etruria e dell'insider trading, argomento che forse conosce bene. C'è un'indagine per insider trading nei riguardi dell'ingegner De Benedetti, che avrebbe detto di aver acquistato azioni perché informato da Palazzo Chigi sull'imminente decreto per le popolari. Cioè, capite il clima tra Renzi e D'Alema? Cioè, chi se le dà così di santa ragione non sono due leader di opposti partiti, ma sono il presidente del Consiglio e l'ex presidente del Consiglio, sempre del PD, Massimo D'Alema. Certo, D'Alema non è che guarda Renzi come grande rappresentante della sua stessa parte politica, evidentemente, ma questo è il clima. Tanto che il Foglio oggi va letto in questo editoriale di prima pagina: s'allarga il partito della graticola, lo chiama così il Foglio, PDG, partito della graticola. La tessera numero uno appartiene a un signore coi baffi che da un mese e mezzo è tornato in TV, rilascia copiose interviste: Massimo D'Alema. E se fino alle amministrative Renzi veniva visto come l'unica alternativa di governo credibile, ora le cose sono parecchio cambiate. Vuoi perché Renzi sembra meno imbattibile di prima? Vuoi perché parte dell'establishment inizia a mandare qualche segnale? Vedi l'intervista di Carlo De Benedetti al Corriere della Sera, che dice: Renzi rischia di diventare il Fassino d'Italia. Insomma, il partito della graticola, questi sono i timori di Palazzo Chigi, scommette su Piercarlo Padoan e vede il presidente del Senato Grasso come risorsa naturale. Beh, questi sono i retroscena, no, della politica, gli intrighi. Ma insomma, secondo il Foglio, il partito della graticola, cioè coloro che vorrebbero mettere Renzi un po' in difficoltà, si guarda anche ai movimenti degli europeisti Enrico Letta e Mogherini, anche a quelli degli industriali, gli anti-boccia in Confindustria, il grillismo di Cairo, la freddezza di Bolloré. Insomma, si ipotizza uno scenario che vede Renzi e il governo Renzi nel mirino. Intanto, nel retroscena di Maria Teresa Meli si racconta che l'Italicum, la legge elettorale, so che voi siete sempre appassionati del borsino quotidiano su come sta l'Italicum, e allora dovremmo farlo anche con una sigla, il borsino quotidiano, come sta l'Italicum. Maria Teresa Meli racconta che le sorti dell'Italicum, ovvero il vero oggetto del contendere della politica italiana, potrebbero essere decise prima del referendum, perché la Corte Costituzionale dovrebbe prendere in esame la riforma elettorale il 4 ottobre prossimo, mentre per il referendum si parla come date o del 6 novembre o addirittura potrebbe slittare al 20 o il 27 novembre. Insomma, vabbè, cose che accadranno. Cosa accaduta invece già sul referendum è questa: il no, il comitato per il no fa sapere al Fatto Quotidiano, che da sempre sostiene questa linea sul no al referendum e quindi sostiene anche il comitato presieduto da Pace e Zagrebelsky, due costituzionalisti, non ha ottenuto le 500.000 firme. Ripeto, non ha ottenuto le 500.000 firme. Il referendum si farà lo stesso, state tranquilli, tanto c'è già il numero di parlamentari che lo hanno richiesto, quindi il referendum si farà. Ma non avendo ottenuto i 500.000 firme, non avranno diritto ai rimborsi. Questa è una notizia spettacolare per i contribuenti, spettacolare. Non otterranno i rimborsi. Ecco, notizia un po', certo, un po' più delicata per la democrazia: non avranno spazi garantiti in TV. E il Fatto dice: beh, come sempre, finora non li hanno avuti. Mentre il comitato per il sì ha ottenuto le 500.000 firme, fanno sapere, questa è una notizia ferale per i contribuenti pubblici, perché avranno diritto a 500.000 euro di rimborso e avranno diritto agli spazi garantiti in TV. Il no invece non ce l'ha fatta. Caro Mauro Meazza, tu hai votato per il no, hai firmato per il no, per il sì, per il forse, buongiorno, per il quando, per il chissà mai. Non ero informato della questione. Ah. Posso fare un appunto a Alessandro Milan, il certo, conduttore? Devi sempre. Cioè, ma veramente hai detto storitelloso? Sì, ho detto storitelloso, dai, è cioè, molto storitelloso. Stai ammettendo di aver detto storitelloso? Sì, non ho detto petaloso, ma storitelloso. Storitelloso. È storitelloso. Che significherebbe più beh, o meno... insomma... Che fa parte del tipico storytelling di Renzi. È molto storytellosa questa abolizione. Fermiamoci perché stai peggiorando la tua situazione. Allora parliamo di banche. Sì? No, parliamo di banche perché proseguiamo nell'inchiesta oggi su Sole 24 Ore sulla le ragioni della crisi bancaria con un'analisi paese per paese delle varie debolezze, perché come già ti dicevo ieri, se da noi c'è un problema degli NPL, in altri paesi c'è un problema ad esempio di crediti per prodotti derivati, cioè strumenti finanziari derivati, quindi esposizioni eccessive che gravano sui bilanci delle banche. Tu medita sulla pagina oggi curata da Luca Davi e Moria Longo, in pagina 2, che meditano. Ti dà tutta la mappa del rischio bancario. Poi ieri è stata... in realtà, come vi spieghiamo a pagina 3, una buona giornata in borsa e anche in fondo una buona giornata in Europa, perché la cancelliera Angela Merkel ha detto beh, ma sì, sulle banche italiane, sul possibile aiuto pubblico per le banche italiane si troverà la soluzione. Questo è sembrata un'apertura. La sostanza, come già ti riferivo ieri e rispieghiamo oggi in sintesi sul Sole 24 Ore, è che appunto ci sarebbe il varco nelle regole europee, dentro le regole europee, mm-hmm, proprio per intervenire da parte dello Stato con alcune condizioni. Vediamo tutto quanto riassunto in pagina 5, mentre so che dell'addio a Equitalia già hai parlato, e lì mi pare che ti sei incestato in questo storitelloso. Esatto. Allora te ne riferiamo, sai che lì c'è... Si attende un decreto sostanzialmente, devo dire che anche il personale di Equitalia lo attende, lo riferiamo nelle norme tributi, lo attende con una certa preoccupazione. Come ricordavi già tu, poi comunque le tasse bisognerà pagarle lo stesso. Chiaro. E quindi, in questo è storitelloso. Ma dici che dobbiamo chiedere che... Ma dove sei? Che c'hai un cordless? Cioè... No, sono tranquillamente mia. Dice Paolo Corleone che è colpa nostra, stai tranquillo. È colpa vostra. È la linea, cioè, questi sono i potenti mezzi di Radio 24. Perché devi migrare? No, ma figurati, non è storitelloso. Può capitare un disturbo sulla linea, sì, no? Sì, ma certo. Allora, ti voglio anche dire che in realtà a proposito di Equitalia e di rate, sai che ci sarebbero 86.000 contribuenti, non so se ci sei anche tu, che hanno smesso di pagare le rate e si potrebbe riammetterli con una modifica al decreto legge, un decreto legge in discussione. Oh, ti voglio anche dire che ricordati che oggi c'è sempre il volume dell'economia per la famiglia, perché oggi è mercoledì, giusto? Come no? Mi confermi? Martedì e mercoledì, certo. Martedì e mercoledì, quindi ricordatene, non venire a cercarmelo. E poi potremmo risparmiare 800 milioni nei prossimi 3 anni con l'AGID, cioè con il piano digitale per la pubblica amministrazione. Tutti i particolari su imprese e territori, sulle pagine di imprese e territori, vediamo se poi, come dire, cotanto piano diventerà operativo, ma noi saremo qui storitellosamente per raccontartelo. Oh, mi sa che dovevo chiamare l'Accademia della Crusca, capire se abbiamo inventato... Sì, è praticamente autodenunciarci, vuoi sì. dire? Va bene. Allora aspettiamo la loro telefonata e per il momento traffico! Molto storitellosa, come annuncio, molto storitelloso. Alessandro Milan, il sciupapagine dell'informazione. Va bene, cari ascoltatori, mandateci le vostre sigle al 349-238-6666, WhatsApp, anche WhatsApp, quindi in audio perfetto come sapete fare voi. Allora, ieri, per quel che riguarda Roma, Beppe Grillo si è visto ed è stato incontrato da Virginia Raggi, sindaco. Grillo da Raggi ora di al massimo e lancia la campagna Movimento 5 Stelle per il no al referendum. Per quel che riguarda però Virginia Raggi sono due gli articoli interessanti. Il primo è di Repubblica, sono entrambi articoli critici. Repubblica racconta, pagina 16, la Parentopoli grillina a Roma. Mariti, fidanzate, amici degli amici, la Parentopoli del Movimento 5 Stelle. Giovanna Vitale racconta, pagina 16, un elenco di persone, per esempio Giovanna Teodonio, moglie di Marcello De Vito, che viene reclutata come assessora alla sicurezza del personale della Polizia Locale al Terzo Municipio. Oppure la fidanzata del bis consigliere comunale Enrico Stefano, o Stefano, che si è dovuto, che ricorrendo a un escamotage, è stata spostata al settimo municipio, ha ricevuto la delega al sociale. Oppure all'ottavo municipio, dove in consiglio siedono Teresa Leonardi ed Eleonora Chisena, madre e figlia, Giuseppe Morazzano e Luca Morazzano, padre e figlio. Insomma, basta una vasta parentela, un po' di organizzazione, il seggio è assicurato. Questa è l'accusa di Repubblica, cioè si viaggia sempre lì su questioni di famiglia. L'altro articolo che invece è della Stampa, Antonio Pitoni, a pagina 17, racconta la vicenda della Procura di Roma e la Raggi. La Procura di Roma racconta, la Stampa è pronta a iscrivere la Raggi nel registro degli indagati. La vicenda è sempre quella delle consulenze alla ASL di Civitavecchia. L'ipotesi di reato su cui si sta meditando in procura, secondo la Stampa, è falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, con pena massima prevista 2 anni di reclusione. Per la verità, ieri noi avevamo avuto Raffaele Cantone, che qui a questi microfoni ha detto che non è vero che l'autorità anticorruzione ha già mandato le carte in procura. Però Cantone ha detto effettivamente stiamo facendo un'indagine perché è arrivato un esposto e quindi è nostro dovere verificare, non escludendo insomma che le carte potrebbero arrivare in procura. Secondo la Stampa, la Procura di Roma è pronta a iscrivere la Raggi nel registro degli indagati, quindi le carte sarebbero in qualche modo già arrivate. Vabbè, staremo a vedere. Sulla questione migranti invece vi voglio segnalare un'interessante pagina di Vladimiro Polchi e siamo a pagina 15 di Repubblica. Ed è questa: non è vero che l'Italia è un colabrodo, almeno per quel che riguarda le richieste di stato di rifugiato o di asilo politico, che in realtà vengono per la maggior parte respinte in Italia. L'Italia alza una barriera all'ondata di profughi, altro che paese colabrodo, dove tutti entrano e restano. Da noi ottenere lo status di rifugiato è sempre più difficile. Infatti, 2 richieste su 3 vengono respinte. Dall'80% di domande accolte nel 2012 si è passati al 41% del 2015 e ora si è crollati al 34% di domande accolte nel primo trimestre 2016. Complessivamente le richieste d'asilo nei paesi europei nei primi 3 mesi del 2016 sono state 300.000, 90.000 in più, molti vengono dalla Siria soprattutto, la meta principale resta la Germania. Ma racconta Repubblica, 2 su 3 vengono respinte di queste richieste. Va bene, dai, siamo in rapida conclusione. Vi voglio sottolineare che, come ho detto alle 6.30, giocandoci anche un po', c'è un posto di lavoro che tutto il mondo dovrebbe invidiare. Non è la barberia del Senato, non è la barberia della Camera, non sono loro, ma, signori, racconta Repubblica, è il signor Olivier. Chi è Olivier, dite voi? Olivier, français, francese, parrucchiere personale di François Hollande, che guadagna, lo dico anche in diretta video sulla mia pagina Facebook, guadagna, secondo un giornale francese, 593.700 euro l'anno, lordi per carità. E con lo scandalo che si è creato per questa cifra, il parrucchiere di Hollande, la risposta è stata: ma è a disposizione 24 ore su 24, Hollande non lo cambierebbe per nulla al mondo. E allora tutti noi vorremmo essere Olivier. Come ho detto prima, basterebbe, per quel che mi riguarda, imparare il francese, avere le entrature giuste all'Eliseo e imparare a fare barba e capelli. E poi è fatta, 593.000 euro. Per una cifra diversa, Ilaria D'Amico, invece, racconta al Messaggero, è parte lesa in un processo al proprio commercialista, suo grande amico. Dice, era di più di un amico. Il Messaggero racconta, Cristiana Mangani si è presentata ieri in procura, Ilaria D'Amico, parte lesa, il suo ex commercialista è accusato di averle sottratto 1.200.000 euro che dovevano servire a pagare le tasse, invece, secondo l'accusa, sono spariti e Ilaria D'Amico accusa. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ve l'avevo detto ieri, ve l'ho detto ieri. Vedrete la stampa come ricamerà sui topi, i serpenti, le blatte. Ieri ve l'avevo detto, non è passato un giorno che ecco qui Claudio Risè sul giornale a raccontare la metamorfosi del topo moderno, da topolino a Stilton, da Ratatouille a Topo Gigio, ai toponi di Roma. Ma chi se ne frega!